Benvenuti a Il Confronto. Oggi, ecco, ci addentriamo in un tema a dir poco cruciale: il ruolo che il mondo accademico ha giocato nell'incredibile ascesa delle grandi piattaforme tecnologiche. Beh, all'interno della scuola e dell'istruzione. Sì, la questione che vogliamo esplorare è complessa e, diciamo, ci divide. Dobbiamo chiederci: l'Accademia ha consapevolmente preparato il terreno all'egemonia del capitalismo digitale, offrendogli la legittimità culturale di cui aveva bisogno e, di fatto, presentandolo come un destino inevitabile? Ure, al contrario, il suo entusiasmo iniziale per la tecnologia, questo suo tecno-ottimismo, è stato semplicemente sfruttato in modo ingenuo da forze di mercato, che forse non era preparata a comprendere fino in fondo. Io sosterrò la prima tesi. L'Accademia ha promosso attivamente quello che chiamo un pensiero tecnopedagogico unico, costruendo un modello di istruzione, a mio avviso, volutamente subalterno alle logiche delle piattaforme. E io invece argomenterò che l'Accademia si è mossa a partire da un ingenuo, quasi infantile, determinismo tecnologico. La sua visione di un digitale come strumento di emancipazione è stata poi cooptata, distorta, da un'agenda capitalistica che, all'inizio, avevamo tutti, ampiamente sottovalutato. Allora, parto subito con la mia posizione perché fatico a vedere l'ingenuità in un processo così, come dire, strutturato. Quello che abbiamo visto, a mio parere, è stata la costruzione di un vero e proprio dispositivo di potere culturale, orchestrato dalle articolazioni istituzionali dell'Accademia, e qui penso a enti come ANSA, Sindire, che è l'organo di ricerca del Ministero, e al Ministero stesso. Il perno di tutto è stata una parola magica: innovazione. Ma attenzione, non era intesa come progresso pedagogico, come un modo migliore per insegnare e apprendere, no. Era intesa come rottura fine a se stessa, come competizione. Questo ha innescato una logica di bandi, di gare tra scuole per accaparrarsi fondi, creando una profonda differenziazione nel sistema e una corsa all'ultimo gadget tecnologico. E da lì l'adozione acritica di qualsiasi slogan commerciale venisse proposto: il making, la gamification, lo storytelling. Ricordiamo tutti le campagne martellanti e costosissime per formare docenti all'uso delle LIM, le lavagne interattive. Così facendo, si è plasmata una narrazione in cui le competenze, le skills, necessarie per interagire con le piattaforme del cosiddetto capitalismo di sorveglianza, Google, Amazon, Microsoft, sono diventate un obiettivo formativo essenziale. Praticamente l'istruzione pubblica doveva farsi carico di formare i futuri utenti e lavoratori di quel sistema. Questa per me non è ingenuità. È la costruzione deliberata di una subalternità culturale. Capisco la durezza della tua analisi e vedo gli elementi che la sostengono, certo, ma la mia prospettiva nasce da un'esperienza diretta e, lo ammetto senza problemi, da un'originaria ingenuità. C'è stato un tempo, parlo degli albori di questo movimento, in cui molti di noi, credevano sinceramente che un software educativo ben fatto potesse cambiare il mondo. Eravamo affascinati, convinti che le proprietà intrinseche della tecnologia digitale, la possibilità di modificare un testo all'infinito, il costo quasi nullo della distribuzione, l'ipertestualità avrebbero prodotto quasi per una legge di natura un'innovazione democratica e positiva. Eravamo affetti, diciamo, da una sorta di determinismo tecnologico. Credevamo ci fosse un solo modo, il migliore, per usare il digitale nella didattica. Non avevamo l'esperienza per comprendere a fondo le logiche economiche, gli interessi dei grandi gruppi professionali che si stavano muovendo. Io ricordo l'entusiasmo nel mostrare i primi ipertesti in una classe. L'idea che gli studenti potessero creare percorsi di lettura non lineari ci sembrava una rivoluzione copernicana. Vedevamo solo lo strumento e il suo potenziale emancipatorio. Ci è voluto molto, molto tempo per capire che quel potenziale poteva essere piegato in direzioni opposte, non necessariamente liberatorie. La nostra non è stata complicità, ma una profonda inesperienza unita a un ottimismo che oggi appare ovviamente fuori luogo. Ed è proprio qui il punto. L'idea di un vuoto culturale o di una semplice inesperienza mi convince poco. La trovo quasi un'autoassoluzione. Prendiamo la tua stessa parola, determinismo. Non era forse proprio l'Accademia a promuovere l'idea che la tecnologia avesse una sua direzione inevitabile? Analizziamo il concetto di innovazione che ho citato prima. L'uso ossessivo di espressioni come fare innovazione o ambienti di apprendimento innovativi non era affatto neutrale. Serviva a porre il nuovo tecnologico come il fine ultimo, non come un mezzo al servizio di un progetto pedagogico. Ma non era forse un tentativo, magari, sì, magari goffo, di sciocare un sistema scolastico percepito da tutti come immobile, troppo rigido? Goffo o strategico? La prova del 9, a mio avviso, è arrivata con il lockdown. Di fronte a un'emergenza reale che avrebbe dovuto essere il banco di prova di 20 anni di innovazione, tutta quella retorica è crollata come un castello di carte. Cos'è successo? La stragrande maggioranza degli insegnanti, lasciati a se stessi, ha fatto l'unica cosa che poteva fare. Ha riprodotto il modello che conosceva, la lezione frontale, semplicemente, trasmettendola attraverso una webcam. Questo dimostra che quell'innovazione non aveva sedimentato nulla di concreto, nessuna pratica didattica solida e condivisa. Era un discorso di potere, un costrutto ideologico per orientare finanziamenti e carriere, non una strategia pedagogica robusta. Su questo punto non posso darti torto. Il lockdown ha messo a nudo una fragilità spaventosa. Però io continuo a interpretarla in modo diverso. L'enfasi sull'innovazione è stata un errore fatale, ma l'errore è stato non capire che, in assenza di una visione pedagogica forte e di un'analisi critica della società, quel concetto sarebbe stato inevitabilmente fagocitato, definito dal mercato. Non credo a un progetto deliberato per asservire la scuola al capitale. Credo piuttosto che la debolezza del pensiero pedagogico abbia creato un vuoto. Un vuoto che le aziende tecnologiche, con la loro potenza di fuoco comunicativa, sono state abilissime a riempire con i loro prodotti, i loro slogan, la loro visione del mondo. Non c'è stato un complotto, c'è stata una resa culturale dovuta a una debolezza interna. Vedi, è proprio questa idea della resa o del vuoto che trovo problematica, perché assolve chi aveva la responsabilità di riempire quello spazio con alternative. E questo mi porta direttamente al secondo punto cruciale del nostro confronto, la cosiddetta cittadinanza digitale. Iniziative come questa o la media education sono state l'alibi perfetto per normalizzare l'egemonia delle piattaforme. Hanno veicolato un'idea tanto semplice quanto, a mio parere, pericolosa. L'illusione che tutti i problemi etici, politici, economici potessero essere risolti a livello individuale. Ma l'intento non era quello di fornire strumenti critici. Voglio dire, di educare i ragazzi a essere utenti più consapevoli? Il messaggio era: impara a usare bene lo strumento, impara a difenderti dalle fake news, impara a proteggere la tua privacy. Tutta la responsabilità veniva scaricata sul singolo docente, sul singolo studente. Nel frattempo, cosa faceva lo Stato, consigliato da quella stessa accademia? Rinunciava scientemente a costruire infrastrutture pubbliche, aperte, controllate democraticamente. Anzi, stringeva accordi quadro, milionari con le multinazionali, di fatto rendendo obbligatorio l'uso dei loro ambienti chiusi, dei loro software proprietari. Si è predicata l'autotutela individuale mentre si costruiva, mattone su mattone, una dipendenza strutturale. È una contraddizione clamorosa. L'errore di valutazione è stato macroscopico, sì, ma di un'altra natura. Ci siamo concentrati sull'uso, sull'interfaccia, senza vedere che il vero campo di battaglia era la struttura sottostante, il modello di business. Non capivamo, o forse non volevamo capire, che il mercato non era più il software che comprava una tantum. Il vero mercato erano diventati i dati degli utenti, il nuovo petrolio, come si iniziò a dire. E l'Accademia, il luogo del pensiero critico per eccellenza, non si era accorta di questo slittamento epocale. Sembra difficile da credere. Se ne sono accorti in pochi, e le loro voci erano marginali. La maggior parte di noi aveva l'attenzione rivolta a come usare gli strumenti per scopi didattici, mentre il modello di business di quelle piattaforme si basava sull'estrazione invisibile e massiccia di dati per la profilazione, per la pubblicità mirata. La nostra analisi era ferma al prodotto, al software, mentre il valore si era spostato sul dato. Quando abbiamo compreso la portata del fenomeno, era troppo tardi. Le piattaforme erano già diventate infrastrutture indispensabili. E oggi la storia non solo si ripete, ma lo fa in modo ancora più subdolo, più potente, con l'intelligenza artificiale generativa. Il copione è identico, cambia solo il lessico, che è diventato ancora più seducente. Non si parla più di innovazione, una parola ormai logora. Si usano termini rassicuranti, il copilota per l'insegnante, il tutor intelligente per lo studente, la personalizzazione di massa. È un nuovo pensiero tecno-generativo unico che maschera un'operazione che io chiamo fracking cognitivo. Fracking cognitivo è un'immagine forte, quasi violenta. Cosa intendi esattamente con questo termine? Cosiddetto tutor intelligente. Ogni domanda che pone, ogni errore che commette, ogni esitazione, ogni riscrittura di una frase viene catturata, analizzata, processata. Stiamo letteralmente fratturando il processo di pensiero per estrarne valore, proprio come si fa con il gas di scisto. È un'estrazione che va molto più in profondità di un semplice like su un social network. E cosa vedo fare all'Accademia? Esattamente la stessa cosa di 20 anni fa. Sta fornendo la base culturale, la legittimazione scientifica per questa nuova ondata di egemonia, accettando acriticamente la narrazione delle big tech e promuovendola come il futuro inevitabile e desiderabile dell'istruzione. Il rischio che tu descrivi è enorme, è reale e sono il primo a vederlo. Ma proprio l'esperienza passata, la nostra ingenuità di allora, ci impone di non commettere lo stesso errore due volte. Oggi il dibattito non può essere un semplicistico intelligenza artificiale sì contro intelligenza artificiale no. Sarebbe una battaglia persa in partenza e sterile. La discussione, finalmente, deve vertere sulle domande precise che non abbiamo fatto 30 anni fa. Chi controlla i dati di addestramento di questi modelli? Con quali logiche economiche operano? Esiste la possibilità di un controllo pubblico, di un audit trasparente sugli algoritmi per verificarne i bias? La vecchia prospettiva del software free e open source oggi non basta più. Deve allargarsi dal codice sorgente ai modelli, ai dati, alle infrastrutture computazionali. La vera sfida non è rifiutare la tecnologia in blocco, ma usare la consapevolezza critica che abbiamo guadagnato per progettare attivamente delle alternative. Alternative basate sul controllo democratico, sulla trasparenza e su infrastrutture che siano un bene comune, non una miniera privata. In conclusione, direi che questa nostra conversazione ha messo in luce un percorso in cui l'Accademia, promuovendo un'idea di innovazione superficiale e adottando acriticamente il linguaggio e le logiche del mercato, ha oggettivamente spianato la strada a un'istruzione sempre più dominata dal capitalismo di sorveglianza. Per me resta la forte convinzione che questo non sia stato un incidente di percorso, ma il risultato di una strategia, se non altro consapevole, per occupare lo spazio del dibattito pubblico e presentare una specifica visione del futuro come l'unica possibile. Io invece ci vedo un'evoluzione, per quanto dolorosa, da un ottimismo tecnologico quasi utopico a una tardiva ma necessaria presa di coscienza della logica estrattiva che governa le piattaforme. Insomma, indipendentemente dalle intenzioni iniziali, che io continuo a credere fossero in buona parte genuine, il risultato è sotto gli occhi di tutti ed è profondamente problematico. La vera sfida oggi è non fermarsi alla critica, ma trasformare questa consapevolezza in un'azione politica e culturale. Dobbiamo costruire, non solo immaginare, alternative fondate sulla cooperazione e su un uso delle tecnologie che sia finalmente e autenticamente orientato allo sviluppo umano e non al profitto. La relazione complessa tra istruzione, tecnologia e potere economico richiede un'analisi critica che non può accontentarsi, ecco, di facili entusiasmi. Il materiale che abbiamo esaminato dimostra che le scelte tecnologiche non sono mai neutre. Esatto, incarnano e promuovono sempre una precisa visione dell'apprendimento e della società. E il nostro dovere, come studiosi e come cittadini, è continuare a interrogarle senza sosta.